Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Il quinto conto energia si esaurirà tra pochi mesi con il raggiungimento della dotazione massima riservata a questa forma di incentivazione, poco meno di 7 miliardi l'anno. Tanti soldi che, secondo varie opinioni, potevano essere spesi meglio, mentre altri sarebbero pronti a giurare che meglio di così non li si poteva spendere. Una cosa però è certa: le imprese italiane hanno goduto per vari anni di incentivi generosi, talvolta persino i più alti al mondo, e ora questa situazione improvvisamente, o quasi improvvisamente, gradualmente ma non troppo, verrà meno. E quale che sia il giudizio sul passato, tutti abbiamo interesse che il settore raggiunga il futuro e lo raggiunga nel miglior stato di forma possibile. Che cosa serve perché ciò possa accadere? Questa è la domanda che ci poniamo stasera. Ne parliamo con Valerio Natalizia, che è presidente del GIFI, gruppo imprese fotovoltaiche italiane, che ha lanciato delle proposte precise in merito. Buonasera Natalizia. Buonasera. Allora, io come prima cosa vorrei capire se finito il quinto conto energia non resta più niente per il fotovoltaico o qualche forma di incentivazione rimane. Beh, ad oggi noi siamo convinti che ci sia la possibilità di utilizzare la detrazione fiscale sugli investimenti, quindi la detrazione del 50% ex 36 di un impianto. Sì, ex 36, dico dovrebbe, perché in questo momento stiamo richiedendo ufficialmente all'Agenzia delle Entrate una risposta affinché ci dia una conferma, insomma, che sia applicabile, sì, che questo 50% è applicabile anche per il fotovoltaico. D'accordo. Veniamo alle vostre proposte. Insomma, come accompagnare in qualche modo alla grid parity il fotovoltaico una volta esaurito il conto energia? Allora, siamo partiti da un punto che per noi è fondamentale, cioè la semplificazione delle procedure autorizzative e di connessione alla rete, perché abbiamo visto che in Italia questo costo è superiore in alcuni casi del 25-30% rispetto a paesi come la Germania. In concreto mi dice una cosa da abolire, per esempio? Più che abolire, semplificare, sì, il numero di documenti da presentare per installare un impianto fotovoltaico in assenza di vincoli. Quindi dovrebbe esserci una procedura estremamente facile per chi volesse... Una scia, diciamo, l'equivalente della scia in campo immobiliare, un'autorizzazione quasi automatica che, laddove non ci siano i vincoli, possa essere utilizzata. Altra misura che proponete sono forme, diciamo, di bonus e sgravi fiscali. A chi e per cosa? Allora, innanzitutto chiediamo la possibilità di prorogare alla detrazione fiscale del 50%, quindi di almeno un anno, portandola appunto in scadenza a giugno 2014. Poi ci deve essere una facilitazione all'accesso al credito, quindi uno dei grossi problemi che abbiamo in Italia, non solo nel fotovoltaico, anche in altri settori, è la difficoltà dell'accesso al credito, e quando questa difficoltà non c'è, dei tassi che sono notevolmente superiori agli altri paesi europei. Quindi pensare, come ad esempio è stato fatto col fondo rotativo di Kyoto, a un fondo che dia la possibilità di accedere al credito e anche a condizioni vantaggiose, insomma. Sì. Un'altra proposta è di incentivare chi investe in Italia, quindi chi crea del valore in Italia investendo appunto del capitale, quindi aziende italiane, aziende estere che decidessero di installare delle defiscalizzazione mirata o riduzione del carico fiscale alle imprese che operano nel settore, che alle nuove assunzioni e nuovi investimenti, insomma. Perfetto. E poi tutta una serie invece di interventi di strategia energetica. Ecco. Quello più importante è, diciamo, il chiarimento da parte dell'autorità, e questo dovrebbe esserci entro la fine dell'anno con l'emanazione di una delibera, dei cosiddetti SEU, cioè sistemi efficienti di utenza. Cosa sono questi sistemi efficienti di utenza? Sono dei rapporti bilaterali tra due soggetti, un produttore e un solo cliente finale. In parole povere, ci sarà la possibilità, appunto, una volta presentata questa delibera, di installare impianti fotovoltaici, ad esempio, sui capannoni industriali, sui capannoni commerciali, e vendere direttamente quell'energia all'utente finale, che in quel caso è... Con un accordo tra privati, sostanzialmente. Perfetto, con un accordo tra privati. Tu, per esempio, mi garantisci l'energia a un certo prezzo per i prossimi 10 anni, e io ti garantisco che la compro. Ci si mette d'accordo in questo un modo. Un vantaggio che il produttore potrà vendere l'energia all'utente, al consumatore, senza caricare quell'energia dei costi degli oneri generali di sistema. Quindi praticamente gli oneri di spacciamento e di trasmissione non graveranno sul costo dell'energia e quindi il produttore potrà vendere a un prezzo vantaggioso l'energia al consumatore. Certo, perché viene prodotta e consumata praticamente nello stesso luogo, è questo che è il punto? Assolutamente, viene soprattutto in questo caso si privilegia il fatto che ci sia una quota elevata di autoconsumo e quindi sì, ci sia la possibilità di produrre e consumare praticamente contemporaneamente. Nello stesso istante, quindi sì, giustamente a questo punto, siccome l'energia non viene fatta circolare su lunghe distanze, questo io trovo che sia un tema molto importante, perché si fa molta fatica anche a quantificare qual è l'impatto in termini anche economici che l'aumento della produzione distribuita e non programmabile di energia causa sulla rete. Invece in questo modo si contiene anche la domanda di nuove infrastrutture di rete, che a sua volta rallenta lo sviluppo delle rinnovabili. Sì, assolutamente. E il passo successivo che noi abbiamo anche proposto è quello di normare anche le cosiddette reti interne di utenza, che sono praticamente dei contratti non più tra due soggetti, ma tra un gruppo di produttori e un gruppo di consumatori. Pensiamo ad esempio alle aree industriali che ci sono nel nostro paese. Un altro punto molto importante è rappresentato dalla possibilità di aumentare lo scambio sul posto. Quindi produco e metto in rete quando posso generare energia e poi la sera dalla rete posso prendere questa energia. Oggi questo limite è posto a 200 kW. Anche qui la nostra proposta è di aumentare la soglia di potenza massima, per esempio fino a 1 MW, ma legando la taglia dell'impianto a quelli che sono i consumi effettivi dello stabile. Anche qui la volontà è quella di creare delle situazioni virtuose all'interno delle quali si possa produrre dove si consuma. Grazie Natalizia, ci fermiamo qui, ma domani continuiamo a parlare del futuro del fotovoltaico. Buona serata.